mycket det visar. Vi var vojar i parlarti, vi var vojar i chiamarti. Rimasi un po' sorpreso, non pensavo fossi tu. Tutto è cominciato, il bene poi è cresciuto. Passavamo notti insieme a conoscerci. Io e le mie domande, cercavi le risposte. Facevamo sempre tardi, come adesso che siamo io e te. Quante stelle ho visto, quanti desideri ho espresso in questa notte di agosto. Che sei stesa a fianco, nei tuoi occhi vedo il mare, nella luna trovo te. Non mi sembra poi banale dirti che non voglio perderti, ma esserci. Tutto è cominciato, non so cosa accadrà. Meglio viverlo il tempo che lasciarlo andare. Se io sto con te, è forte l'emozione che provo in fondo al cuore. Come adesso che siamo soli, io e te. Quante stelle ho visto, quanti desideri ho espresso in questa notte di agosto. Che sei stesa a fianco, nei tuoi occhi vedo il mare, nella luna trovo te. Non mi sembra poi banale dirti che non voglio perderti, ma esserci. Quante stelle ho visto, quanti desideri ho espresso in questa notte di agosto. Che sei stesa a fianco, nei tuoi occhi vedo il mare, nella luna trovo te. Non mi sembra poi banale dirti che non voglio perderti, ma esserci nei giorni.